tutti al mare ve ne siete andati oggi. Gianniro Perfetto, Gianniro Profeta, insomma lo senti, sì, lo sì, né Perfetto e né Profeta. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, binario 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brico, brico. Spagna sul fondo, Francia. Sul 45 ci stanno dei soliti camionisti, è la domenica, non lavorano, quindi chi c'è, chi può essere, se non è qualcuno che magari è partito da sabato notte per stare qua lunedì, ma non penso, è fermo in aspettativa di scarico, allora sì, ma se no non è giornata dei camionisti, la domenica. Ma non possono viaggiare la domenica, dal sabato magari, da sabato mattina, perché da sabato sera sino a lunedì non possono viaggiare. Attenzione, binario 10, ascoltate l'isola sarda che fa chiamata, cambio. No. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda, cambio. Binario 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, cambio. Sto al 48 Lupin, capito? Sarà in giro questa bella giornata, chi può uscire, io non posso uscire perché sono tutto dolore, sperando che mi faccio perché non ce la faccio più. Beh, non posso manco alzarmi, c'è un dolore al femore che non va, non augura nessuno. Tu cosa c'hai? Un'uscita aperta oppure c'è il callo solo? No, io ho fatto un piede l'ha fatto il vento. vetro il vecchio, invece che il chiodo il vetro. Mi è entrato un vetro, mi hanno operato, ho toccato di schegge, mi hanno rivolto tutto il piede e adesso non si vuole più chiudere, cioè si è chiusa tutta la parte che mi hanno operato, hanno lasciato un pezzettino per drenare e quel pezzo lì si è formato il callo, ma le pareti non si vuole chiudere. Con un califugo per toglierlo. Io uso quella macchinetta per i calli, quella che li abbassa, no? Però uso anche il bisturi. Io praticamente col bisturi me lo tolgo e poi tutto al lato lo limo con la macchinetta e lo faccio perfetto. Se quando ricresce sto bene, poi mi fa ancora male il piede, allora devo rifarlo. Anestesia non te ne fanno, perce il curettaggio l'ho fatto anche all'ospedale e anestesia non me ne facevano. Me lo toglievano senza anestesia, col bisturi, piano piano, me ne tagliava tutto quanto attorno e poi lo puliva bene con la forbice, tutto quanto e poi lo disinfettava. All'interno ha lasciato un vuoto, si è coperto solo col callo lì e sotto c'è il vuoto, non si è mai riempito di callo. Dove è entrato il chiodo sicuramente ha lasciato il vuoto, capito? È per quello che ti fa male, come è successo a me. Si è formata la carne fino a un certo punto, poi quel punto dove hanno lasciato per drenare non si è mai formata la carne. Si è formato il callo attorno alle pareti, non fa unire le due pareti, quindi non guarisce mai. Adesso sto provando con la penicillina, a vedere se ce la faccio. Thank you. si sente in quanto arriva un furto. Non ho capito a chi è che non l'hai più sentito. Ah, grazie a lui, lui va sul 23. Una fesseria, poi c'è anche il filo della colonnina interna che si è staccato, poi c'è anche quello. Tu lo apri e controlli se la colonnina c'è i fili attaccati, potrebbe essere anche quello lì, ma è una fesseria. Venendo la sciatica invece. Sì, sì, sono stato lui di Marco. Ho paura di non potersi mettere la volo. Poi non ce la faccio manca a muovere, faccio due passi mi stanco, mi fa male. Ah, proprio tribula la situazione. No, a me ieri non avevo niente. Siccome c'era un bel venticello freddo al mare, fresco, io alla fine alle 5 e mezza me ne sono dovuto fuggire, avevo un freddo. Probabilmente mi ha preso gamba sinistra, lato esterno della gamba, proprio a ragione del nervo sciatico. Poi vabbè, io a un altro non gli avrebbe fatto niente, che io sono debolciato. I colpi d'aria fanno male a te. Ma ti ha dato solo con tua mamma? No, no, solo, mamma non... A malapena può camminare in piano, figurati dove c'è la sabbia, si sbilancerebbe e cadrebbe. Finché non si opera non può fare niente. E invece, anzi, quando sono andato via stava ancora arrivando gente, capito? E vabbè, non sono più giovanissimo, gli acciacchi si fanno sentire. Poco, ma si fanno sentire, diciamo, quelli comuni, no? Va bene, io ho finito, mi sto facendo il secondo. Vai Francesco, quindi questo cos'è un Lincoln, ha detto, che non riceve, così è? Sì, Sì, poi sai cos'è, questa aggiustano di tutto, no? Televisori, cellulari, però i baracchini, soprattutto se sono di vari anni fa, qualche decennio fa, cominciano, non si trovano i pezzi, cioè, alla fine un riparatore ufficiale non c'è, no, in Italia o Sassari, no, dei baracchini, cioè che faccia anche baracchini, non ne vuole prendere nessuno, si scocciano me, in poche parole. Mentre per qualsiasi altra cosa di qualsiasi marca, che sia elettrica, elettronica, c'è l'assistenza. I baracchini sembra che siano una sottocategoria di roba elettronica. Vai Gianni. Ma c'è, basta andare da Vittorio e te lo rifare. Solo lui rifare, dato so che te lo fa per Vittorio. Ma per mestiere lo fa la sua passione. Però Vittorio lo fa per mestiere e te lo ripara se glielo puoi. Vabbè, conta che Vittorio è anche operato di lavoro, cioè lui c'ha l'assistenza Sony, credo, insomma tutte quelle cose lì del laboratorio. Poi quando... aspetta, mi sta chiamando, ma quando ha tempo poi fa anche baracchini, però con nei ritagli di tempo. Ma dai, vai da Tama che devi mangiare così. Avanti Francesco. Yeah. fatto, non avrei aggiustato manco uno, me lo si è comprato nuovo direttamente e avrei risparmiato. Almeno c'è un apparecchio che funziona come si deve. Ricevitori, baracchini e anche altre cose che adesso non mi vergogno anche di dire, ah? All'epoca follie per cosa? Per niente. Poi e anche le bambole gonfiabili vendeva. No, magari li avrei comprato anche quelle se le avessi avute. No, sai cosa avevo comprato all'epoca? Poi svenduto subito dopo perché mi ero reso conto della follia. Il TH75, portatile VEU, mi pare 750.000 lire degli anni 80, inizi 90, una follia. Poi per cosa? Per niente, perché usare non infatti svenduto subito dopo, o non svenduto, rivenduto tramite lui. Il gusto di averlo tra le mani e poi rivenderlo, lo sai come sono io, no? Piadino, ma allora già se ne sentiva la risposta. Adesso non te ne vai più nulla, ti ripuoi pure lampare, le apparecchi vuoi, non servono più a nulla, non senti più niente. Ehi, e gli scanner pure, gli scanner analogici, non... Io, vabbè, ce l'ho qua, radiatori non ne sento più perché sono quasi, credo che il 90% del traffico sia in digitale. Il PMR sento, cos'altro sento? Poi vabbè, tutto il resto che c'era all'epoca che non si doveva ascoltare, non c'è nemmeno più quello. Anche le guardie giurate, tutte quelle di... le ambulanze, tutto quanto adesso hanno criticato tutto, hanno fatto turbazioni, certi se la cercavano, c'era un certo corpo di guardie giurate che aveva il ponte senza subtono, cioè tu entravi con lo shift all'ingresso ponte e ti ritrasmetteva via ponte, niente subtoni, niente codici, niente seletti, nulla, nulla. Infatti qualcuno che aveva anche l'RZ1 in macchina si divertiva, uno basso, ti ricordi, alla Croce Blu. Già hai capito, sì. Sì, hai capito, capito. Dici, capito. Eia. Eia, eia. Vabbè, un bel tempo comunque. Sì, adesso ci sono ricevitori digitali, ma lo paghi 1.300 euro. Per sentire poi i radioamatori, perché tanto i servizi importanti, chiamiamoli così, probabilmente cripteranno tutto, cioè, sono già in digitale, ma sono gli unici che possono cifrare le comunicazioni, almeno così sapevo, per ovvi motivi, no? Sentivano anche il radio taxi, adesso penso che si sentano più. Ah, i taxi, io anni che non ho notizie, loro stavano sui 43 MHz, poi non ho più saputo niente, ma credo che l'abbiano abbandonata, magari c'è un Zello con un canale privato chiuso agli altri, no, tanto tutti hanno smartphone, chiamano tramite quello, perché con Zello lo puoi fare, con Civital che non lo puoi fare, e ci ho visto di tutto, corpi di vigilanza su Zello, corpi, ambulanze, di tutto e di più, anche canali privati tipo polizia, carabinieri, ma credo per tipo servizio, magari non piglia la radio, chiamano con Zello, infatti le radio non hanno quasi più senso di esistere per quei servizi. Sa che i radio taxi ce li hanno ancora, perché li ho visti io, ce li hanno le radio. Io mi ricordo che la signorina la mattina augurava il buongiorno a tutti i tassisti, auguro buongiorno a tutti gli autisti, il buon servizio, le diceva, e avevano anche un microfono amplificato perché arrivava un bel forte. Non so, allora le marche principali erano Intec e Midland. L'Intec era più bello, aveva il display LCD, il Midland era più tipo baracchino anni 80-90, manopolone, sì, display a LED, solo che anche lì un'altra banda mezza nata morta, perché lo stesso non vengono più prodotti apparati, non vengono più prodotte antenne, quelle che c'erano le stanno svendendo, le hanno già svendute. Come la banda degli SRD 860 MHz spiccioli, gli apparecchi li aveva fatti la Midland, la Linco, poi morta anche quella, niente più produzione di apparati, niente più SRD. Dal Cison ci abbiamo il 43 MHz, anche che c'è sul tetto nel caseggiato dove c'è il Cison, e in più ce l'abbiamo in tutte le macchine, compreso di strada, quello che fa il Cison. Sì, peccato, una banda, perché sai, andare in V, in U, hai bisogno dei ripetitori se ti allontani dalla città, entro certi limiti, no, naturalmente. Vabbè, vai Francesco. Thank you. no, Francesco, forse mi ero allontanato, non avevo copiato io. È un po' messa male fisicamente, ma già una volta che si opera già si mette a posto. E gli anni passano. Infatti ho già, ogni tanto qualcuno chiede che scanner comprare, no? Sui forum o così, anche in persona, ho detto, ma cosa, che scanner vuoi comprare per ascoltare cose? Manco più Radio Anto risenti. Sì, qualcosina, Ponte Cesar, poi altri, però rispetto a una volta c'è un abisso proprio, caspita, vabbè, pazienza. Sì, è così. Oh, Francesco, a Sassari ci sono diversi tipi di taxi, ci sono quelli che si chiamano Radio Taxi, che sono di una cooperativa e quelli lavorano con i baracchini. Poi ci sono i taxi normali che sono di privati e quelli lì lavorano col telefono, e allora posso dire prendessi il pullman, lì c'erano i pullman dove ci sono i giardini, prendevi il pullman, arrivavi a Sassari, poi da Sassari andavi a Usilo, ma sai Liguria, ma da Sassari a Usilo, anche se prendi il tassi non paghi chissà quanto, ma cazzo, da Alghero gli alugri li paghi così. C'è mia figlia per fare 30 metri, cavolo, 50 metri, perché aveva le valigie, doveva partire da Bologna a venire qua, ha preso il taxi, gli ha fatto pagare 40.000 lire. Così, così, è 40 euro. Trovato costretti a fare autostop, lo facendo. Mamma mia, cazzo, va a pagare quel tanto lì come veniva a stare una notte in albergo. Se ne stavi una notte in albergo, dormivi lì e domani pigliavi un pullman, sai lui. Sapendo che prendevi quella cifra, non avessi fatto così. Non è un motel, cioè un motel è un... come si dice, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un motel, un mot Gianni forse ci ha sentato. Salutare che arriva la gente e sto chiudendo, dai. Saluto anche a Marco, quando entra se non mi sente salutamelo da partire. Ci sentiamo, una buona serata, un buon continuo corseo, dai, che sto gente a casa. Ciao! Già. È importante che ci abbia qualcuno che ti può fare commissioni anche se non puoi uscire. Ok, ci sentiamo, dai, migliori occasioni. Vai Francesco. Io poi devo uscire dopo le 9:30, o giù di lì, mi devo fare la barba, tagliare i capelli, un po' di roba devo fare. Sono ancora in pigiama io, non mi sono ancora vestito. Giornata di sonno era oggi. Va bene, ci sentiamo alle prossime. Ciao Francesco, buona serata, buon tutto, alle prossime. Ciao.